Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Bene, oggi parleremo di un argomento importante che riguarda il vino. Appunto, non toccheremo i problemi, diciamo, di gusto, non parleremo di bouquet, non parleremo di profumi, ma di grado alcolico. Bene, diciamo che sempre più spesso si dice che i vini italiani hanno un grado alcolico troppo alto. C'è chi lo dice, c'è chi lo contraddice e chi vuole, diciamo, approfondire questo argomento. E quindi oggi cercheremo di approfondire un argomento che interessa molto. L'ho riscontrato sul mio sito Gastronauta, su Facebook Il Gastronauta e anche su Twitter. All'annuncio di questa trasmissione sono arrivati tantissimi messaggi, quindi vuol dire che è un qualcosa di molto ma molto sentito. Allora, numero verde per chi volesse intervenire: 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo da Marco Reitano, sommelier presso il ristorante La Pergola di Roma. Perché? Perché proprio parlando con lui tempo fa, mentre mi serviva un vino, è diciamo, venuto fuori questo argomento e mi è sembrato di capire, Marco, tu me lo puoi confessare. Buongiorno, che Davide, salve. Ci sono molti diciamo ospiti, molti clienti che discutono su questo, è così? Assolutamente sì, oggi più che mai rispetto al passato i clienti, quando scelgono il vino, quando chiedono suggerimenti sul vino, menzionano il grado alcolico. Nella mia esperienza da ristoratore, diciamo, da sommelier all'interno del ristorante di 18 anni ormai, ho visto che negli ultimi 2-3 anni sempre più il cliente incalza con la richiesta: ma quanto è il grado alcolico, quanto alcol c'è in questo vino, ma è forte? E in effetti il problema ce l'abbiamo anche noi sommelier, perché i gradi alcolici sono aumentati all'interno dei vini. Ecco, forte, questa cosa sento anch'io moltissimi che, diciamo, tirano fuori questo aggettivo, ma lo voglio chiedere a Roberto Cipresso, winemaker e anche ormai autore di diversi libri, ormai è uno scrittore affermato. Roberto Cipresso, tra l'altro, ha anche scritto, ho letto un suo articolo tempo fa su Bibenda sull'alcol. Roberto, ma è giusto che molte persone, quando bevono un vino, dicono forte e immediatamente la correlazione è sul grado alcolico, oppure non è così? Intanto buongiorno a tutti. Davide, sì, cioè è abbastanza normale che uno si chieda quanto vino può bere in una serata, perché poi anche questo è il nostro problema. Il fatto è che a volte non si può avere, come si dice, la botte piena e la molto ubriaca. Dobbiamo fare i conti con il limite, no? Il limite dell'alcol, nel senso che noi possiamo ottenere grandi vini soltanto se abbiamo fatto maturare per bene quelli che sono i tannini, quelli che danno la fragranza, la complessità, la ricchezza di un vino. E questa volta, e molto spesso, anche in funzione di quello che è accaduto nel clima di questi ultimi anni, sono scaldate molto le stagioni, diventa difficile far conciliare le due cose. C'è uno strumento, e io approfitto e ti ringrazio per l'invito a questa chiacchierata. C'è uno strumento che viene considerato un grande tabù per l'Italia, che è l'utilizzo dell'acqua in viticoltura. Tu pensa, no? Si crede sempre che l'acqua sia lo strumento che fa ingrandire i grappoli, che fa produrre di più, che rende i vini più banali. In realtà l'acqua, soprattutto nelle stagioni, quelle più calde, e quando siamo vicini all'invaiatura, cioè quando l'uva cambia colore, è uno strumento straordinario, fondamentale, quello che permette, l'unico joystick, l'unico manubrio che permette a un viticoltore di fare i conti tra gli zuccheri e i tannini, cioè riuscire a mettere insieme la maturità fenolica con la maturità, quella tecnologica, quella zuccherina. E se riusciamo, ed è la vera quadratura del cerchio, a vendemmiare con gli zuccheri maturi quanto i tannini, beh, possiamo anche probabilmente portare a casa un grado alcolico in meno, possiamo sicuramente raggiungere il nostro goal, il nostro obiettivo. Bene, ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Torno a Reitano. Reitano, ma il cliente quando vede 14 gradi e mezzo, 15, come reagisce? Sa, è conscio di che certi vini hanno questa gradazione, ad esempio molti vini del sud, per ovvie ragioni climatiche e altro, oppure diciamo rimane sorpreso? Ma diciamo che a grandi linee non è così sorpreso, ma piuttosto impaurito. Diciamo sorpreso non perché Non è sorpreso perché sugli scaffali dei negozi e nei ristoranti, e anche magari si è appassionato girando, si è accorto ormai nell'ultimo anno di leggere sempre più spesso queste cifre sulle etichette, quindi 14,5, 15, 15,5. Si mette paura al momento che viene suggerito il vino e vede il grado alcolico sulla bottiglia, perché sa che magari quello potrebbe compromettere quella serata, potrebbe compromettere la sua alimentazione, quindi potrebbe compromettere la digestione di tutto questo alcol. Per quanto riguarda anche la tavola, voglio aggiungere che anche per quanto riguarda i cibi oggi si tende ad avere un'alimentazione salutare, diciamo che l'alcol sappiamo che è più difficile da metabolizzare, quindi i grossi quantitativi di alcol unitamente ad una cena, all'eventuale ristorante o a casa sono, diciamo, pesanti nei confronti della nostra digestione. Roberto Cipresso, volevo chiederti questo rispetto, diciamo, ai concorrenti francesi. Mediamente la nostra gradazione alcolica dei nostri vini è molto più alta, così come si dice. È vero, verissimo. E noi dobbiamo fare i conti con la luce, cioè l'intensità luminosa è quella che fa accelerare il processo di maturazione di questi benedetti tannini, con cui dobbiamo fare i conti. E, per esempio, non so, tu sai bene Bordeaux, che non è una viticoltura estrema, sono delle dolcissime colline, delle pianure dove vengono piantate delle viti molto fitte tra loro, cioè densità molto alte. Godono di due grandi qualità climatiche. Una è la corrente fredda che arriva dall'oceano e che aumenta l'escursione termica che fa maturare questi benedetti tannini, e un'altra, un'intensità luminosa molto alta, una quantità di luce che investe le loro giornate che è superiore alla nostra. Io vedo anche in Argentina o in Cile, dove non c'è umidità in certe aree, c'è una qualità di luce che risponde sensorialmente al vino. Quindi, come dire, devo fare i conti anche con quelli che sono i limiti e le potenzialità, per carità, dei nostri territori, e riuscire con una politica che sia coerente con quella che è la necessità del mercato a dare libertà e spazio ai viticoltori intelligenti, perché possano far corrispondere quel tenore dell'alcol con però una maturità che non deve essere compromessa, perché se facciamo, cioè, la sola tecnologia o la sola vendemmia anticipata non risolve il problema che hai sottoposto tu. Bene, grazie a Roberto Cipresso e a Marco Reitano. Io ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Voglio leggere un messaggio prima di passare la linea alla regia. A casa di solito il cliente beve vino a 10,5 gradi, quando fuori casa sente troppo la differenza. Beh, non lo so se a casa si beve una bottiglia che è in vendita normale, caro Agostino, credo che sia la stessa cosa, non credo che da casa fuori ci siano queste grandi differenze. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di un argomento appassionante, il grado alcolico dei vini. Abbiamo già sentito alcune osservazioni importanti che ha fatto il nostro Roberto Cipresso, ma sentiamo un radioascoltatore, Marco da Roma. Buongiorno Marco. Marco, prego. Buongiorno. Io sono solo un ascoltatore, non è che mi ritenga un grande intenditore di vino, assolutamente, però ho la sensazione o il timore che si vadano a mistificare i sapori, cioè i nostri prodotti nazionali, no? Dal momento che tendiamo a globalizzare tutti i sapori, non vorrei che adesso anche il vino perda del suo splendore, nel senso che se uno va al ristorante e ordina un vino del sud, io penso che ci arrivi da solo a capire che un vino ad alta gradazione alcolica, da che mondo è mondo è sempre stato così, per cui riterrei più opportuno che ci si insegni a bere, per cui con l'ausilio di un buon sommelier è lui che mi consiglia il vino da bere, perché non è che possa poi trovarmi un vino del sud che me lo gusta a 10 gradi quando invece se deve essere a 16 gradi non ho più i suoi sapori. Cioè, io ho il timore di questo, che andiamo verso anche ad una globalizzazione solo per una questione di mercato e di vendita. Bene, ritengo interessante. No, no, no, ma lei ha portato un argomento secondo me molto interessante. È un argomento, il discorso della globalizzazione, quindi di cercare di imitare gli altri, secondo me che è da tenere sotto controllo, ovviamente. Per carità, ha ragione, ha messo già, come si dice, un altro argomento sul tavolo, ma sentiamo ancora Daniele dalla provincia di Ancona, un altro radioascoltatore. Buongiorno Daniele. Quando intervengo così mi regolo, perché sennò mi muovo. Prego Daniele. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego, intervenga. Buongiorno. Io ho ascoltato l'intervento di Roberto Cipresso, io sono enologo, sono anche produttore di vino, di verdicchio, e credo che noi dobbiamo fare un po' di mea culpa noi enologi, perché per troppo tempo, ormai da diversi anni, abbiamo cercato di perseguire la qualità del vino concentrando i vari ingredienti del vino, mi spiego, cioè il vino non è altro che una miscela di ingredienti e l'alcol è uno di questi. Siamo stati capaci solamente di così fare il diradamento, l'intervento in vigna con la potatura verde, e quindi in qualche maniera questo risultato, questa concentrazione di alcol non è altro che il frutto di una scelta abbastanza semplice, e quindi credo che il solo fatto di irrigare la vigna non sia assolutamente una soluzione. Bene, grazie Daniele. Bene, ora abbiamo con noi Donato Lanati, che è un noto, notissimo enologo, professore di università, che è un grande centro di ricerche. Donato, hai sentito questo ultimo intervento? Sì, di questo ciao, tuo collega. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ho sentito gli interventi sia di Reitano che degli altri, sì, dell'ultimo enologo e degli ascoltatori, interessantissimi. Vorrei focalizzare che però questo problema non è soltanto italiano. Per esempio in Argentina si stanno dei vini di 17 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 3 anni fa ha imposto all'OIV di fare dei vini con dei livelli di alcolici più bassi, perché di un vino dealcolato ce n'è bisogno, perché ha cambiato lo stile di vita. Immaginatevi che l'OIV, che è l'organizzazione mondiale scientifica di riferimento, a cui fanno parte 45 paesi del mondo, si fanno delle risoluzioni che diventano leggi. Solitamente queste risoluzioni sono fatte di 7 tappe e ci si mette 5 anni. Per arrivare alla dealcolazione di 2 gradi ci abbiamo messo meno di 1 anno e mezzo, e adesso nella prossima settimana, che ci sarà il convegno mondiale in Portogallo, si discuterà della dealcolazione del 25%. Quindi già dal 2009 in Italia, come negli altri 45 paesi al mondo, si può dealcolare fino a 2 gradi alcolici. Per quanto riguarda quello che ha detto un ascoltatore interessantissimo, dice: bah, anch'io che sono italiano, praticamente mi sto preoccupando perché abbiamo sempre valorizzato la vocazionalità territoriale e l'originalità dei nostri vitigni, praticamente mi ha dato un dilemma. Allora, che è questo? Ma noi dobbiamo per forza imporre uno stile di vita, oppure dobbiamo sviluppare dei nuovi prodotti adatti alle esigenze di mercato? Questi sono i 2 punti. Però si verrebbero a ottenere 2 vini completamente diversi, se sono decolati molto e non concorrenziali, quindi ci potremmo tenere sia l'uno che l'altro. Poi per quello che ha detto l'enologo di Bologna o di Ancona. Sì, Ancona, provincia di Ancona. Ancona è intelligentissimo, è vero, abbiamo esagerato noi enologi, sempre la concentrazione, i vini super concentrati, impenetrabili il colore, abbiamo fatto veramente in qualche modo dei disastri, abbiamo condizionato anche i giornalisti, o forse è stato anche un po' contrario. Comunque bisogna partire e vedere la cosa in un modo più ampio, partire sia dalla viticoltura, come ha detto Cipresso, ma con una gestione della vegetazione. Questo è estremamente importante, ma non ci si riuscirà soltanto con quello, perché è vero che abbiamo graduazioni alcoliche più elevate perché abbiamo avuto dei cambiamenti climatici, l'ozono, il buco dell'ozono, la luce, c'è più luce e di conseguenza lo zucchero si forma nelle foglie, si forma più zucchero, ma noi dobbiamo portare a maturità questi metaboliti secondari che sono i polifenoli, gli antociani, i precursori di aroma. Per arrivare a maturità, avere dei vini buoni, abbiamo un'elevata concentrazione. Bene, rimani con noi Donato, perché ora abbiamo anche un noto ricercatore scienziato. Abbiamo con noi il professor Bertelli, professore di farmacologia all'Università di Milano, che tra l'altro è anche un noto produttore di vino, quindi sicuramente abbina l'una e l'altra cosa, e di alcol sicuramente vale la pena parlarne con lui. Professore, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Lei pensa che, cioè, una domanda, abbassando il grado alcolico, se questo fosse possibile, sicuramente magari il discorso del bere con moderazione sarebbe più facile, oppure abbassando il livello alcolico, se la gente continua a bere molti bicchieri, questo non serve a ben poco? Ma nella gamma dei vini ci sono vini tipici che hanno un basso grado alcolico e vini che proprio sono tipicizzati per, non dico un elevato, ma un alto grado alcolico, che dipende dalla zona di produzione, se sono nord, sud, molto assolate o meno. Il variare queste caratteristiche vuol dire variare anche la tipicità del vino. E quindi io credo che la dealcolizzazione sia un fattore artificiale da non seguire. Ecco, e un vino, bevendo un bicchiere di vino, diciamo, di 14 gradi e mezzo, 15, e due bicchieri di vino da 10,5, c'è differenza? La differenza può esistere senz'altro, ma esiste soprattutto nella maniera di berlo. Se uno beve durante i pasti moderatamente e a pausa, diciamo, con pause abbastanza distanziate, non c'è differenza. Se invece uno prende e beve d'un fiato un bicchiere di 11 gradi e un altro di 14-15, la differenza c'è. Bene, quindi sicuramente allora è una questione sempre di quantità, insomma, e di modo di bere. È di modo di bere. Quindi il modo di bere. Se uno beve durante i pasti, tutte le punte vengono smorzate, quindi non ci sono più queste grandi differenze. Bene, grazie professore. Sentiamo Pasquale da Milano, radioascoltatore. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che ovviamente le leggi che vietano tutta Europa, insomma, l'eccesso di alcol nel sangue per chi lo può deve guidare, sono leggi che hanno modificato le abitudini. Adesso anche in Francia è possibile avere un bicchiere di vino o mezzo bicchiere di vino, mentre in passato ti obbligavano a comprare la bottiglia da mezzo litro e a pagarla anche se la bevevi. Quindi questo è una modifica delle abitudini importanti. Sul grado alcolico dei vini italiani e francesi, per dire quelli più importanti, direi che la differenza si creta se noi andiamo sui vini regionali. In Francia ci sono vini da 14-15 gradi che si bevono essenzialmente nelle occasioni o in casa, come i vini alto Altoatesino sono vini da 8 gradi. Stessa cosa è che ovviamente bere a casa è diverso che non bere fuori casa. Questo dimostra anche molta filmografia americana o europea in cui si andava a casa delle persone portando cosa? La bottiglia di vino, perché era il vino da bere ad alta gradazione, abitudine che in Italia non c'era così tanto. Quarto punto è che oggi ragazzi di 18-20 anni ballano bevendosi un vino per strada a mezzanotte. È una cosa veramente bene, che ha spostato l'abitudine del vino verso lo sballo e non verso il gusto, il consumo di vino. Grazie Pasquale del suo intervento dei quattro punti. Torno a Donato Lanati. Volevo chiedere, Donato, hai parlato di queste raccomandazioni OIV, volevo chiederti, tu pensi che saranno così recepite nella viticoltura italiana? Dunque, lo Stato italiano può dealcolare senza scrivere etichette già 2 gradi. E come dicevo, si discuterà la prossima settimana in Portogallo del 25%, tanto è vero che un vino da 15 può essere ridotto a 11,5-11,25. Dealcolare fino a 2 gradi, praticamente un vino di 15 gradi, portarlo a 13, non è tanto diverso dal testimone, cambia leggermente il gusto, ma pochissimo. D'altra parte è vero che ci sono degli aspetti olfattivi e di tipicità, questo è vero, però dealcolare 2 gradi non comporta un grande cambiamento. Cambiare di più vuol dire andare su un altro mercato che non è concorrente con questo. penso di sì che saranno recepiti, perché si danno alle aziende la possibilità di fare dei nuovi prodotti e sdoganare un po' quel vino che abbiamo tutto nelle cantine, perché è vero che abbiamo raggiunto il primato, come si legge su tutti i giornali, della grande produzione, ma non quello della vendita. Quello della vendita ce l'hanno i francesi, non ce l'abbiamo noi, tanto è vero che tappiamo la metà dei contenitori che tappano i francesi, quindi il valore aggiunto è loro e di tutti quelli a cui noi vendiamo il vino. Ecco, questo mi tira la volata, Donato, per dire una cosa: che tutti hanno festeggiato questo primato italiano, io forse sono uno dei pochi che non festeggio, anzi dico che festeggerò solo quando batteremo i francesi in valore e non in quantità. Mi sembra che sia una vittoria di Pirro e che sia un risultato veramente che è stato esagerato dai media, è stato esagerato un po' da tutte le dichiarazioni. Come ripeto, io festeggerò solo quando batteremo i francesi in valore, venderemo meno e incasseremo molto di più. Grazie a Donato Lanati. Tornerò fra poco, però ora voglio anche annunciare un grande evento in Puglia, Masserie sotto le stelle, la prima notte bianca in campagna da stasera dalle 6 in tutte le masserie didattiche della Puglia. Ci sarà grande festa perché saranno aperte, ci saranno laboratori didattici per grandi e piccini, pane, formaggio, miele, la scoperta degli animali, la mungitura delle mucche, insomma una grande festa in tutta la Puglia, che dove le masserie sicuramente sono uno dei punti di forza del turismo oggi e sicuramente un ottimo turismo. Il gastronauta. Vino troppo alcolico? Questo è l'interrogativo che è corso durante questa trasmissione. E cosa fare se c'è bisogno di intervenire? Bene, sentiamo un radioascoltatore, Antonio, dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Io sono anche notecario, seguo per dei corsi di abbinamento cibo-vino e trovo che questi vini, come diceva un radioascoltatore precedentemente, stanno bene ognuno a casa sua, utilizzati per quello che quel territorio e quel vitigno normalmente esprime. È inutile utilizzare un vino a 12 gradi a bassa concentrazione di minerali, quindi con sapore 100, su un cibo che ha sapore 150, perché è chiaro che non avrò mai la soddisfazione, non riuscirò mai ad essere appagato. L'equilibrio tra cibo e vino nel mix palatale è determinante per la fortuna di tutti e due i componenti. Io ho avuto occasione nella mia vita recentemente di assaggiare un Chianti classico che era stato prodotto a Rivella nell'82, 12 gradi e mezzo, fantastico, ha ancora qualche anno davanti da vivere. Ho bevuto dell'83 un refosco di Paolo Tosolini incredibile. E mi sono ritrovato recentemente con un rosso di Dettori 18 gradi, dico 18 gradi, ma come è possibile che per me? Ma penso, ho dovuto rimettere dentro un po' i bisolfiti perché sennò mi rifermentava ancora in bottiglia. Bene, Antonio. Ma l'equilibrio era talmente perfetto, sì, che l'alcol era a casa sua. Bene, Antonio, mi viene da ridere per un motivo: che lei ha nominato un Chianti di Ezio Rivella. Ezio Rivella è in linea. Buongiorno, Rivella. Buongiorno, buongiorno. Non è stata una cosa combinata tra Antonio, me e Rivella, è stato semplicemente veramente un caso. Bene, Ezio, io volevo chiedervi, che Ezio è un produttore ed è anche presidente del consorzio del Brunello di Montalcino, volevo chiedere, tu che hai una grande esperienza internazionale, ma è proprio vero che i vini italiani vengono considerati troppo alcolici? Non solo i vini italiani, chi ha aperto questa nuova moda, perché è cambiato nettamente lo stile dei vini negli ultimi 40 anni e i vini di 13, 14, 15 gradi si fanno ormai da 30-40 anni, perché siamo passati dal vino che era la bevanda, che si consumava a bottiglie, anzi a bottiglioni prima. Siamo passati al vino che si consuma a bicchieri e oggi a sorsi. Insomma. L'alcol purtroppo è uno dei costituenti più buoni del vino e si vogliono vini che impressionano, che subito danno sensazioni enormi. L'alcol è oltretutto poi un solvente, insomma, e quindi è una cosa importante. Certo che non sono più i vini belli, profumati, gradevoli beverini che c'erano un tempo. Ecco, ma chi l'ha voluto questo? Beh, è stata l'evoluzione dello stile, hanno cominciato soprattutto i californiani negli anni 70, Robert Mondavi, quando ha voluto imitare i francesi. Allora i francesi, è successo che gli sono andati dietro. Oggi i vini di Bordeaux, che prima avevano 12 gradi e mezzo ed erano più scarichi di colore, più acidi eccetera, sono diventati più molli, hanno perso il 30% di acidità, hanno aumentato 2 gradi di alcol e sono andati appresso alla moda, quindi tutta la nuova viticoltura, l'Australia, il Cile, l'Argentina, insomma, oggi fanno questi vini qua che impressionano alla degustazione perché devono prendere i punteggi, devono fare, insomma, e poi ci consumano sorsi. Bene, grazie Ezio, ci hai già dato un altro spunto molto importante sullo stile di vita cambiato e sull'imitazione, diciamo, dei californiani, questi californiani. Bene, allora io ora andiamo al sud perché abbiamo parlato molto dei vini del sud, della gradazione. Allora abbiamo qui un bravissimo professore, nonché anche produttore di vino ultimamente. Buongiorno Luigi Moio. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ma Luigi, si può fare qualcosa per questa alta gradazione dei vini del sud o vanno bene così? Ma io intanto vorrei riprendere un attimo il concetto appena espresso da alcune cose appena dette da Ezio Rivella, tra l'altro che saluto. È vero, tutto ciò è iniziato in California nei paesi neoproduttori, ma probabilmente loro non ne sono responsabili direttamente. Questo è legato essenzialmente alla diffusione in diverse latitudini in cui questi vitigni non sono adatti o non danno il meglio, di tutta una serie di vitigni, i cosiddetti vitigni chiamiamo internazionali. È chiaro che in California, una volta introdotto Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, eccetera, vitigni che si sono diffusi un poco dappertutto e in climi più caldi, questi vitigni hanno una capacità di accumulo enormemente elevata. Inevitabilmente le uve sono arrivate in cantina più mature, con gradazioni alcoliche più elevate. È chiaro che c'è anche un obiettivo enologico dietro tutto ciò, c'è stato, però l'aumento, diciamo, della gradazione alcolica è anche dovuto alla diffusione in situazioni pedoclimatiche inadatte di vitigni invece che in altre zone effettivamente non accumulano così tanto. E quindi non è un problema nemmeno secondo me di sud-nord, perché tra l'altro la gradazione alcolica è aumentata anche per molti vini al nord, è un problema di allineamento e di adattamento del vitigno al territorio dove si vuole fare viticoltura. E quindi al sud, con i vitigni storicamente adattati in queste zone, non è vero poi di fatto che si raggiungono gradazioni alcoliche elevate, a meno che questo non rientri in un preciso obiettivo enologico. Ecco. E quindi è chiaro, con l'aglianico, se pensiamo a un vino rosso aglianico, la media, diciamo, delle gradazioni alcoliche è intorno ai 12,5, massimo 13 gradi, ma se può fare tranquillamente 12,5 di solito. Quindi quando ritroviamo dei vini più concentrati e più alcolici, perché c'è un preciso obiettivo enologico in uno stile, effettivamente, come diceva prima Rivella, di vino appunto molto particolare, quindi più armonico, più, non ci dimentichiamo che l'alcol è appunto un elemento di cerniera importante nel vino, quindi contribuisce alla dolcezza del vino, ecco. E quindi questo è frutto un po' dell'evoluzione, quindi della moda, esatto, dell'evoluzione del gusto, e un poco di come si è diffusa la viticoltura in tutto il pianeta. Grazie Luigi, sentiamo Agostino da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Agostino. Oh Davide, buongiorno, Paolini anzi. Allora, due cose. Noi abbiamo dei disciplinari per i vini, per fare la DOC, la DOCG e l'IGT, e quindi mi sembra che sia un vincolo poi nel prodotto finale. E questo, quindi, con tutti quegli esperti che ci sono stati fino adesso, vorrei sapere se è un vincolo oppure no. Volevo dire una cosa a Rivella, che il vino per anni è stato alimento più che bevanda per i nostri contadini. Non so se concordi. Bene, sentiamo Rivella su tutte e due le risposte allora. Ezio. Sì, esatto, è un obiettivo enologico. Oggi si ricercano le rese basse, che sono quelle responsabili delle alte gradazioni. Con la resa bassa anche un Barbera del Piemonte o un Nebbiolo eccetera raggiunge matura prima l'uva e si raggiunge facilmente i 13-14 gradi, insomma, diminuendo la produzione del 50%. A Montalcino abbiamo lanciato queste abitudini di radare i grappoli, insomma, ormai è una pratica diffusa, la usano tutti, insomma, e questo ha comportato per il Sangiovese un aumento della gradazione, una diminuzione della quantità e un aumento della gradazione di tutti i concentrati dei polifenoli, insomma, e tutti i contenuti che sono nell'uva che passano poi nel vino. Insomma. Bene, grazie a Ezio Rivella, grazie a Luigi Moio, dei due interventi interessanti. Sentiamo Franco dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, allora sono d'accordo anch'io con il professor Moio che ovviamente i vini alcolici non sono solo al sud, basta ricordare il Caricante dell'Etna che arriva a 12-12 gradi e mezzo o il Kärntner dell'Alto Adige a 15-15 gradi e mezzo. E, però tornando al discorso di prima, secondo me c'è un nome e un cognome che è colpa di questi vini così che sono diventati così muscolosi, così, che si chiama Robert Parker, cioè a dare l'impulso a vini che hanno la struttura, che hanno importanza, vini che considero io da concorso, perché le guide hanno nel nostro mondo, purtroppo, io sono un produttore, preso un'importanza anche a livello commerciale, perché se non hai 3 bicchieri, 5 grappoli e questo e quello, diventa un problema commerciale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare sempre di vino. Abbiamo sentito degli spunti veramente molto ma molto interessanti. Allora abbiamo con noi Franco Zigliani, che è un giornalista, un blogger, uno molto attento al mondo del vino da sempre, e a lui voglio un po' rivolgere la domanda o l'osservazione che ha fatto questo ultimo produttore di vino che è intervenuto. Lui dice: se andiamo verso la grande e l'alta alto alcolico, tasso alcolico dei vini e alta concentrazione, lo dobbiamo a un signore che si chiama Robert Parker e alle guide. Tu cosa ne pensi, Franco? Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono totalmente d'accordo con questo ascoltatore e penso che oggi abbiamo ascoltato da parte dei vari enologi che sono intervenuti quasi una confessione di colpa. Hanno ammesso di aver esagerato, però non mi pare che abbiano molta voglia questi enologi di cambiare musica, perché è chiaro che Robert Parker, una certa stampa specializzata, le guide hanno avuto colpa, ma questi vini non li hanno prodotti le guide, non li abbiamo prodotti noi giornalisti, li hanno prodotti gli enologi, li hanno prodotti i produttori per compiacere e piacere a questa stampa specializzata internazionale influente, per avere i premi da certe guide. Vini che non sono stati fatti in questi anni, secondo me, per il consumatore, sono stati fatti da tanti produttori, poi ci sono fortunatamente felici eccezioni, sono stati fatti per stupire con effetti speciali, perché più muscoli avevano, più grassi erano, più concentrati erano, più, secondo una certa perversa stilistica dominante, passavano per essere vini importanti. Ma adesso, secondo me, tanto più con la crisi, dobbiamo tornare a fare vini, dico la banalità del giorno, per essere bevuti punto, quando mangiamo a tavola. Tanti di questi vini fatti in questi anni erano vini da degustazione, da effetti speciali, che però portati a tavola, quando mettevamo la bottiglia sul tavolo e cercavamo di bere certe bottiglie abbinate ai piatti, rimanevano tristemente piene, perché erano eccessivi. Un'altra cosa interessante, penso si debba far rilevare, si è parlato molto della California e del Nuovo Mondo. Recentemente ho letto un articolo che riferisce uno studio della più importante università di studi enologici del Nuovo Mondo, l'Università di Davis in California. Bene, l'Università di Davis rivela una cosa abbastanza sconvolgente per noi italiani. dice che l'incremento alcolico che c'è stato negli ultimi 5 anni nei vini di tutto il mondo vede l'Italia al 5° posto e soprattutto al 3° posto come incremento di tasso alcolico nei vini bianchi. Per cui quando pensiamo all'Australia, alla California, ovviamente pensiamo a vini molto concentrati con un tenore alcolico importante, ma non dimentichiamo che non solo nel nostro sud, dove ci sono vitigni che per loro natura hanno un tasso alcolico importante, parlo del primitivo di Manduria, ma ci sono fatti dei dolcettoni ad Ogliani nella zona del Diano d'Alba, nella zona del dolcetto d'Alba da 13-14 gradi. Che senso ha fare dei dolcetto da 14 gradi, 14 gradi e mezzo, 15 gradi? È una perversione. Allora bisogna anche rivedere la concezione del vigneto, perché quando si fanno dei vigneti con grandi fittezze, con rese per ettaro abbassate fino all'esasperazione, è ovvio che poi, complici anche le stagioni calde che ci sono state, si arrivano ad avere dei vini esageratamente concentrati. Se si vanno a vedere altra cosa, se si vanno a degustare dei vini classici di Bordeaux o di Barolo, di Montalcino degli anni 70 e 80, si vede che le gradazioni alcoliche erano molto inferiori, eppure quando ci troviamo di fronte a dei grandi vini con 12 gradi e mezzo, 13 gradi, troviamo dei vini dopo 20 anni, 30 anni straordinari. Io credo che buona parte di questi vini, anche nelle grandi zone a denominazione, non siano vini pensati enologicamente per durare, sono fatti per cogliere l'attimo, per piacere al momento. Bene, grazie a Franco Zigliani. Ora sentiamo un radioascoltatore, Massimo dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, prego, veloce. Niente, no, volevo dire solo una cosa, di smetterlo un po' con la globalizzazione, voglio dire, cioè, siamo italiani, ma facciamo le cose che abbiamo sempre fatto, che sono buone. Sì, adesso seguivo la trasmissione sul vino, ma per qualsiasi cosa, perché dobbiamo sempre imitare? Ma sì, ma ci roviniamo, ma voglio dire, ma noi siamo capaci, abbiamo delle cose buonissime in Italia. Bene. Siamo capaci di fare delle cose buone, perché dobbiamo andare a tirarci tutti questi pezzi? Grazie. Niente, la ringrazio. Grazie a lei. Massimo, grazie. Ora chiudiamo con Daniela Scrobogna, che è una nota sommelier. A lei chiedo, ma appunto, un sommelier, come sei tu, che assaggia tantissimi vini continuamente e fa anche lezione su questo, è d'accordo che i vini italiani sono molto alcolici rispetto al resto del mondo oppure no? Chiudiamo appunto con questo interrogativo. Beh, io direi proprio di no, perché sicuramente abbiamo una gradazione alcolica notevole in alcune parti della nostra Italia e sicuramente grazie ad alcuni vitigni, come è stato già ribadito, però non credo che i vini australiani, per esempio della Konawara o di Adelaide Hills, siano meno alcolici o i vini californiani. Il problema secondo me è un altro, non demonizziamo l'alcol, molto probabilmente è stato detto già, assaggiare un vino di 14 gradi vuol dire 14% è di alcol, tutto il resto che proviene dal vigneto, dalla fittezza, dal lavoro in vigna, da Luigi Moio e Ezio Rivella hanno così raccontato quello che accade in vigna, ma il vino ha un valore edonistico che va al di là dell'alcol e quindi l'alcol, se preso con parsimonia, non può essere così importante e così demonizzato. Certo, volevo chiudere perché ho sentito che parlavano dei vini muscolosi di Parker. Sicuramente tutto questo ha influenzato un modo di pensare e di fare vino, ma ringraziando il cielo in Italia tutto questo è già stato superato, perché i vini da noi, chiaramente ci sono anche delle zone di gradazione alcolica elevate, ma si punta soprattutto al carattere, ai vitigni nostri, ai vitigni locali, non chiamiamoli autoctoni o internazionali o locali, ma stiamo mettendo in evidenza i territori e l'alcol, sinceramente, mi sembra veramente un falso problema. Bene, grazie Daniela. Mi spiace per Vittorio dalla provincia di Latina, che è in linea da un po' di tempo, ma non riesco ad ascoltarlo, siamo arrivati in fondo. Voglio solo leggere un SMS. Viviamo proprio in un mondo ipocrita, gli alcolizzati si ubriacano non certo con vini corposi alcolici, spesso costosi, ma con il tavernello... puntini, ci vuole solo moderazione. Bene, dovevamo discuterlo questo e purtroppo non abbiamo abbiamo il tempo. Bene, io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e poi con la pillola alle 11.05 dal lunedì al venerdì. Ringrazio ancora Paolo Corleone in regia e in redazione Anita Panizza. Un saluto dal vostro gastronauta. Fiorfiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi ha presentato il gastronauta.